senti ancora l'odio per i tuoi troppi perché. Lo senti ancora voglia di scappare via da qua. La senti ancora se potessi avere un'altra chance. Sbaglierei ancora. State attenti quando entro, c'è un bersaglio punto al centro. Se la lingua è in movimento, muovo frasi sopra il tempo. Rappresento Indo Sound, e se parli di underground, sono colpi al basso ventre mentre cadi al primo round. Sono litri di inchiostro su carta bianca, pari ai litri di birra ormai scesi nella pancia. Generazione con la testa altrove, per star bene con se stessa deve usare alcol e droghe. A volte la vita propone, molto spesso la vita impone una decisione per andare contro la tua stessa opinione. Il mondo va alla deriva, il mondo ha un istinto suicida. L'uomo uccide l'uomo per il trono, istinto fratricida. Il sociologo parla di noi giovani vuoti, i miei a 50 anni davanti alla tele muti. Parla di ideali, di come ci si emoziona in un programma in cui la più vestita solo il perizoma. La fiamma che bruciava dentro a te, la senti ancora, l'odio per i tuoi troppi perché. Lo senti ancora, voglia di scappare via da qua. La senti ancora, se potessi avere un'altra chance, sbaglierei ancora. Vivo la mia quotidianità, uso le mie capacità, amo la banalità, odio l'eccessiva umiltà, scrivo con semplicità, nido san complicità, senza permesso si fa lo stesso, avanza la creatività. È un fiume che scavalca i suoi argini, penna che trascrive senza rispettare i margini, un hacker che fotte il sistema antivirus, un sucker le botte le prende ed è lui il motivo. Tacchi dove vai, resto qua, tacchi che farai, non si sa, cambierà qualcosa, si vedrà, sarai famoso, non credo ma amo la musica, tutta la musica che comunica, che non giudica, che non limita, che non imita, percorrendo la strada più ripida. Sognatore disilluso, ammetto, ho sogni in una cassa più che sogni nel cassetto. Rappo confuso, con testi scritti a getto, ma se gettassi la spugna avrei il getto di me stesso. La fiamma che bruciava dentro a te, la senti ancora, l'odio per i tuoi troppi perché. Lo senti ancora, voglia di scappare via da qua. La senti ancora, se potessi avere un'altra chance, sbaglierei ancora. Pugni chiusi e denti stretti, non è mai come te l'aspetti. Pugni in faccia, denti rotti, ti colpisce e non te l'aspetti. Cuore batte dentro al petto, pompa rap nei capillari. Chi ti porta rispetto, come panda troppo rari. Vogliono fare a gara chi comanda, ma il loro suono è piatto, tipo schermo al plasma. L'arroganza non ha limite alcuno, ma se qui fai il fenomeno ti si manda a fanculo. Lo senti ancora? Fuoco brucia in eterno. Credi ancora e riempi di sogni un quaderno. Domande senza risposta e qui non giochi il jolly. Amarmi quanto mi costa se provi e non decolli. Suoni come pulci nelle orecchie di uomini che vivono simili a marionette. La vita mi sta stretta come un mio goldone a un nero. Mi rimane ciò che bevo, ciò che sono e ciò in cui credo. La fiamma che bruciava dentro a te, la senti ancora, l'odio per i tuoi troppi perché. Lo senti ancora, voglia di scappare via da qua. La senti ancora, se potessi.